vedo, la cosa più facile di dire è bisogna andare verso una economia che è leggera di risorse. Vuol dire una economia che pesa molto di meno sul pianeta e anche su altri popoli. Una economia che realizza tre grandi obiettivi. L'uno, di essere molto più efficiente nell'uso dell'energia, dell'acqua, dei materiali. Poi un'economia che riesce a abbinare bene i flussi industriali con quelli naturali. E terzo, anche un'economia che poi non si basa più sulla crescita infinita del PIL o delle aspirazioni, però anche un'economia che conosce un principio di sufficienza. Le basi non ci sono, sono tutti, diciamo, questa base è tutto da mettere, non ci sono dubbi. Per questo si battono, non so, tante iniziative, scienziate, anche politici, però certo ci sono dappertutto, però dappertutto sono in minoranza. Dottor Sachs, se è riuscito a fare un giro per la fiera, potrebbe che abbiamo visto sono moltissimi prodotti innovativi, moltissime tecnologie innovative. Quali sono secondo lei quelle più positive per l'ambiente o ci sono delle luci e ombre tra le cose che sono presentate oggi ad Ecomondo? Ecco, certo è difficile da dire perché c'è una tale ricchezza di offerte e di servizi, però una cosa mi è venuta in mente, è quella che, come dire, c'è una utopia nascosta dietro Ecomondo, c'è quella di una società sana, pulita, perché tanti di questi servizi e tecnologie che si vedono sono tecnologie di depurazione, di lavataggio, di pulizia, di filtrazione, di detossificazione e così via. Vuol dire che vogliono pulire qualcosa, ma bisogna vedere chiaramente che questo non è una società sostenibile. La società sana non è uguale a una società sostenibile, invece importante è di avere meno di tutti questi materiali, meno di queste risorse. Dottor Sachs, per la sostenibilità ambientale, lei crede di più nella tecnologia o nell'uomo, nell'innovazione tecnologica o nel fattore politico? Sono due gambe che devono in certo senso marciare insieme, perché anche il disegno politico in fin dei conti ha bisogno di tecnologie che, mettiamolo così, trattano in modo clemente la natura. E dall'altro lato però è anche chiaro che solo con le tecnologie non si arriva da nessuna parte, perché prima luogo le tecnologie non si diffonderanno se non c'è un quadro politico, e secondo che tutte le tecnologie, diciamo, non contano tanto rispetto alla grande problematica della dinamica economica, della espansione permanente in certo senso. Lei sa che l'Italia è leggermente indietro rispetto agli altri paesi europei sulle politiche ambientali. Che consiglio dà a noi italiani per poter raggiungere paesi come la Germania, che per gli ambientalisti italiani rimangono sostanzialmente un modello e una fonte di ispirazione, ma poi non riusciamo praticamente a marciare verso gli standard che paesi come la Germania o la Danimarca stanno già raggiungendo e consolidato da tempo? Beh, difficile da dire, diciamo, anche in Germania non tutto è d'oro che brilla, però lasciamo a parte questo. Io direi, tutto sommato, il governo italiano adesso viene da una cultura di cowboy, e vuol dire questa idea, per questo la vicinanza al governo di Bush, l'idea che non ci sono limiti per l'uomo, che eccellenza è quello di rendere tutto roba di soldi, che, diciamo, se vuoi, il dominio dell'uomo certamente non conosce limiti, che è la vocazione dell'uomo di sottomettere la terra. Da quella cultura qua io non mi aspetterei così tanto.